Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! È Radio Wombat! Benvenuti e bentornati a questo sabato sera su Radio Wombat con Basement Records. Rieccoci qua. Rieccoci, siamo tornati, eh? Senti, no, che entusiasmo nella voce. Più entusiasmo, Cinux, più entusiasmo. Siamo mancati così tanto. Magari sentivano la nostra mancanza, non è vero, cazzo. Il freddo non ci ha uccisi. No, no, assolutamente. Quello che non ammazza rinforza, si sa. Infatti siamo fortissimi adesso. Mamma, ci sa una pompa inaudita proprio. Sì, dei reumatismi. No, dai, dici si rassega? Ma non lo so, cioè non so se la mia schiena è così forte, le mie ginocchia sono così forti, però sì, sono... Dai, come... Sì, dai. Bello, il freddo, mantiene giovani il freddo, Ginox, dai. Sì, mi ritroveranno tra anni. Ci ritroveranno perfettamente come... conservato. Speriamo che non analizzino il nostro ultimo pasto anche perché... Io mangio bene. No, generalmente anch'io, però boh. Va bene, banda alle ciance e ciancio alle bande. Finalmente vi possiamo dire in diretta, almeno per la prima volta nella nostra trasmissione, ascoltateci anche sulla frequenza 1359 dell'amatissima AM in modulazione di ampiezza. Io l'ho fatto dire a te perché se io lo sbagliavo, cioè la prima volta che la dovevamo dire sicuramente dicevo quella sbagliata, almeno così. 1359 kilohertz. Quella là, sì. Sì. Quindi se abitate qui nelle zone intorno a Firenze, diciamo, adesso finalmente... Proprio la frase precisa da dire, proprio la formuletta è: se siete raggiunti dal nostro segnale in onde medie, Esatto, quello lo scopo. Con il se grosso, nel senso se. Dipende se stanno. È una roba in fieri. Può darsi, capito? È come. Dipende quanto stanno relativamente nelle vicinanze, dai. Comunque fate una prova e fateci sapere se da voi, ovviamente, se abitate nella provincia di Firenze. Cioè, se potete dirci solo se ci sentite. Se non ci sentite, non dite niente perché ci deprimiamo. Quindi sarebbe meglio solo buone notizie, no cattive notizie. Certo, se ci sentite, mandateci un messaggio scrivendoci pompissima da casa nostra, vi sentiamo. Altrimenti siete una bomba. Un pietoso silenzio è preferibile. Vabbè, glissiamo, diciamo. Se non ci sentono è perché stanno troppo lontani da Firenze. No, secondo me no. Però sì, facciamo finta di sì. Facciamo finta che sì, sia vero così. Positivo. Sì, io sì. Io ci credo. Ah, anch'io. Secondo me si anch'io. Sente da un sacco di posti. Anzi, ho fatto le prove e si sente da un sacco di posti diversi nell'area metropolitana fiorentina. Quindi secondo me spero che ci contatteranno in diversi. Sì, sì, sì, sì. Anche no. dopo questa cosa pietista, secondo me. Se non volete vedermi piangere. No, non facciamo piangere Ginox, per favore, dai, fatemi questo piacere. Che dici? Partiamo oppure diamo no, no. i nostri contatti? No, prima. Partiamo, dai, partiamo, i contatti dai, si danno dopo. Anche troppo. Che facciamo sentire? Il primo disco è di il nostro primo 45 giri originale, è bene sempre ricordarlo, tirato fuori dalla messe di vinile. Ormai non lo so più. Sappilo. Non so assolutamente più che cosa tiro fuori da dove. Ma intanto l'hai portati. Sono originali, l'hai portati comunque non da casa tua, ma da casa dei tuoi, che sei andato anche a prenderli, li hai selezionati, ti sembra poco? All'inizio, ora se devo dire la verità penso che alcuni siano miei. Ta-da-da. Sì, cioè alcuni del mio babbo li ho già belle finiti e quelli che sono rimasti probabilmente molti sono miei. Va bene, però insomma sei andato a prenderli lontano, anche se nei miei viaggi in Oriente, capito, come Marco Polo, sulle vie della seta, no? E sulla via della seta, in questo caso, sul piatto, il primo vinile a 45 giri che ci ritroviamo, proveniente dalla via della sete, della sete e della seta di Ginox, è di questo gruppo di questo duo che io sinceramente non conoscevo. Neanch'io. James and Bobby Purify, con quello che poi ho scoperto essere il loro più grande successo, che si chiama I'm Your Puppet. Forse anche l'unico successo così grande, sì. Ho un po' indagato e questo è stato il loro più grande successo, che è arrivato addirittura al sesto posto della classifica americana in quell'anno di grazia 1966. Ma noi comunque li apprezziamo uguale, non è che siamo alla ricerca della hit. Li abbiamo selezionati per voi apposta e appositamente. Assolutamente. In quanto gruppo di un certo interesse anche storico. Storico, musicale, perché dal punto di voglio vista della sfidare del soul. In quanti conoscevano o si ricordavano di James and Bobby Purify. Ma io, fino a che non ho preso oggi 45 giri, ho detto cosa facciamo, sentiamo oggi, no. Cioè, se mi avessi detto te ce l'hai, Purify, no. Io a essere sincero, finché non mi hai mandato la tracklist, ne ignoravo totalmente l'esistenza, però vedi? Sono contento che tu mi abbia trovato questo 45 per ravanare nella cantina. È chiaro, anche se la mia non è più quella del mio babbo. È proprio questo lo scopo di questa trasmissione, far tornare alla luce dalla notte dei tempi vinili e singoli dimenticati, e che molto probabilmente vale la pena farli riascoltare ai nostri ascoltatori di Radio Wombat. Vai, proviamoci. E allora sentiamoci il successo di James and Bobby Purify del 1966, I'm Your Puppet. puppet, I'm your puppet. Snap your fingers and I'll turn you some fit. I'm your puppet. Queste appunto erano James e Bobby Purify con I'm Your Puppet, 1966. Che inizio lento e piacevole. Un inizio, siamo partiti tranquilli. Rilassante. Sì, sì. Ora si cambia subito in perché realtà. Eravamo partiti a chiacchierare così sgassando. In pompa con gli urli, e poi invece almeno relax. Un po' di serenità. Esatto. Però cambiamo subito perché non ci piace tutta questa serenità e andiamo a mettere sopra il piatto un mostro sacro degli anni 70. Mostro. E vedremo poi, secondo me, in diversi sensi. Sì. Facciamo un omaggio a glam rock. Facciamo un omaggio a quello più pop e commerciale. Esatto, un omaggio al glam rock con Gary Glitter, che niente poco di meno che il cui vero nome era Paul Francis Gadd, se lo sapevate, ora lo sapete. E vabbè, Gary Glitter era uno dei pesi massimi della stagione del glam rock inglese. Infatti in quei primi anni 70, scusate, si contendeva la vetta delle classifiche britanniche insieme ai T-Rex, agli Slade, agli Sweet e a tutto il resto della banda. Sì, del glam rock, di quella roba lì è quello che mi piace di meno. I T-Rex sono i più seri, gli Slade sono simpatici, pacifici. Gli Sweet sono dei metallari. Mi piace, i T-Rex non mi dispiacciano di Mark Bolan. Tanta roba. È un'altra scala proprio rispetto a Gary Glitter. Sì, ma è, quell'altro, diciamo, era un musicista super. Il ramo principale è il glam rock, ma poi ha avuto diverse ramificazioni questa affiliazione del rock anni 70. E appunto Gary Glitter ha avuto un grandissimo successo, infatti ha avuto tantissime canzoni al primo posto in classifica. La prima di tutte era proprio Rock and Roll, ma anche I Love You, Love Me Love, E poi anche questa I'm the leader of the gang è andata al numero uno in classifica nell'estate del 1973. Quindi è proprio un assoluto peso massimo di quei primi anni 70 Noi ci inglesi. ascoltiamo una hit supernota in realtà. Stavolta non Esattamente, siamo perché andati sulla ricerca della no, chicca. questa è proprio una hit arcinota e arrivata al numero uno delle classifiche inglesi in quegli anni. È stato uno dei suoi numeri uno di Kerry Glitter. E indagando su di lui, dobbiamo purtroppo dire che abbiamo trovato anche un suo lato abbastanza e notevolmente più spiacevole, cioè, almeno io documentandomi per fare questa puntata, Te hai cercato il gossip scabroso. no, è venuto fuori, non è che l'ho cercato, però insomma. Diciamo che la glitterosa carriera di Gary Glitter ha avuto un finale molto molto spiacevole, infatti negli anni 90 è rimasto invischiato in diversi casi in giro per il mondo di pedofilia e di atti osceni con minori, per cui giustamente l'hanno reiteratamente arrestato. Come E Michael qui è Jackson. proprio La prossima volta si mette anche Michael Jackson, così possiamo ma è, parlare male anche di se, lui. però è, vedi, Michael Jackson, nonostante tutto, nonostante le prove, gli è sempre rimasto quell'aura di C'aveva un botto mito, di soldi, Michael Jackson. capito? E allora era riuscito a ungere bene le ruote. Invece, giustamente, Gary Glitter è passato proprio dalle stelle alle stalle, perché si è beccato proprio tutta la parabola, sì, Della star, proprio di grande star, ma anche diciamo la parabola classica, la parabola lo classica, stereotipo della grande star esattamente, che sta. da star a mostro, anche se nell'arco, insomma, era passato qualche decina di anni, però da essere una delle più grandi star del rock inglese degli anni 70. Insomma, la sua carriera e soprattutto la sua vita personale sono rimaste indelebilmente infangate da questo suo vizietto. Brutte, brutte, cose brutte. Cose brutte, quindi sentiamoci solo quello che ci piace di Gary Glitter, ovvero la musica. Sai che non abbiamo detto il titolo della canzone? Sì, l'avevo detto, I'm the Davvero? leader of the Mi ero gang. distratto, chissà che Ai pensavo. ai ai ai, I'm the leader of the gang, 1973, Gary Glitter, Basement Records. Come on, come on, come on, come on, come on, I say, fuma il signor Glitter. Alla fine era famosissima questa di, sì, sì, di era, Glitter. Era, abbiamo preso proprio quella che la conoscono tutti. Assolutamente. Quella che anche alla Rocoteca te la parano, te la sparano di sicuro. Ma ogni tanto va dato qualcosa di conosciuto per rassicurare, certo, l'ascoltatore, no? Certo, non l'hanno capito. Noi li guidiamo in questo percorso, ogni tanto gli diamo delle luci, poi li riportiamo nelle tenebre, nell'underground. Poi ogni tanto li rifacciamo sentire sicuri e poi dopo instauriamo subito dei dubbi nelle orecchie e nelle menti dei nostri ascoltatori. Il prossimo pezzo niente dubbi, è solo certezze proprio. Stiamo parlando di veramente un altro peso massimo, ma questo, cioè, con tutto il rispetto per Kerry Glitter, che ci frega di Kerry Glitter? No, cioè, rispetto a livello musicale, dopo tutto quello che siamo andati a scopare su di lui, però ecco, stiamo andare a parlare del grande, grandissimo reverendo Albert Leornes Green, detto Al Green, che qui stiamo proprio andando sui i fesi massimi del soul, una delle più grandi voci secondo me del soul e del rhythm and blues, ma soprattutto più che altro del soul. E Al Green, ovviamente, come tantissimi cantanti soul in quegli anni, veniva ovviamente da una gavetta gospel. Sì, come quasi tutto l'inizio del soul. Sì, tantissimi dell'inizio della musica soul si sono fatti le ossa cantando gli inni nelle chiese battiste afroamericane. Beh, le prime band si formavano così, erano in realtà band che cantavano gospel in giro, assolutamente, erano band gospel. E in questo caso invece la band di Al Green era la band dei fratelli Green, con lui e i suoi altri tre fratelli, e con il reverendo Green, in questo caso senior, che era suo padre e faceva anche da manager al gruppo dei figli. E negli anni, appunto, per almeno dalla metà degli anni 50 in poi, si esibivano nelle chiese del sud degli Stati Uniti, più che altro in Louisiana, almeno finché poi la famiglia non si trasferì in Michigan. E da lì, un altro percorso classico degli afroamericani dal sud verso le aree industrializzate dei grandi laghi degli Stati Uniti. E di lì a poco il reverendo Green, il padre, buttò fuori dalla band Al Green perché l'aveva sorpreso ad ascoltare Baby Workout di Jackie Wilson. E il figlio del reverendo non si poteva permettere di ascoltarsi musica che non fosse sacra e che fosse musica cosiddetta secolare. Visto che era abbastanza, diciamo, un fanatico religioso il padre di Al Green, lo prese e... In realtà gli ha fatto un favore, perché di lì a poco Al Green passò definitivamente alla musica secolare e già durante la high school formò il suo primo gruppo che si chiamava Al Green and the Creations, insieme a Curtis Rogers e Palmer James, che erano appunto i Creations, e che questi due poi fondarono anche l'etichetta indipendente Hotline Music Journal, dove uscirono i primi singoli del gruppo. E già nel 1967 cambiò nuovamente nome e si chiamarono Al Green and the Soulmates, e registrarono il loro primo successo, Backup Train, sempre sotto la loro Hotline Music. E di lì a poco la notorietà di Al Green esploderà, anche grazie a quel primo singolo, e prese come ispirazione i suoi, quelli che allora erano i suoi più grandi beniamini, come oltre già il già citato J.H. Wilson, anche altri pesi assolutamente massimi del soul come Wilson Pickett, James Brown e Sam Cooke, e tutta una grandissima serie di successi in quella fine di anni 60 e inizi anni 70. E nel 1972 arriverà forse uno dei suoi più grandi successi, nonché brano simbolo della sua carriera, ovvero Let's Stay Together. Let's stay together. C'è la presenza, sì. Sì. I'm in the sun and happy yourself. Va bene, ho fatto piovere, speriamo nevichi almeno, però giustificatemi. E una cosa che degna di nota, prima di farvi sentire il potente soul di Al Green, è l'episodio che l'ha fatto ritornare in mezzo alle braccia del Signore. Infatti poi Al Green verso la metà degli anni 70 seguirà le orme del padre e diventerà il reverendo pure lui, infatti il reverendo Al Green sarà poi, ma l'episodio che sarà la causa di questo, di questa vista del diciamo ritorno verso la luce del Signore, è questo fatto avvenuto nell'ottobre del 1974, quando l'allora fidanzata di Green, Mary Woodson, versò su di lui dei fiocchi d'avena bollenti mentre si faceva la doccia, perché appunto Al Green aveva rifiutato la sua proposta di matrimonio. E questo gesto causò a Al Green delle ustioni di secondo grado alla schiena, allo stomaco e anche in una parte delle braccia, e a causa di questo, diciamo, incidente, la ragazza successivamente si suicidò nella stanza adiacente a quella di Green. E ovviamente detto, questo, la vita è troppo difficile, semplifichiamola. Esattamente. Servono utili semplificazioni. E dopo questo fatto, rimasto notevolmente sconvolto, ha riabbracciato la fede cristiana del padre ed è ritornato verso la musica sacra, ma neanche più di tanto, perché comunque le sue influenze rhythm and blues e soul erano imprescindibili. Comunque tutta, ecco, gente strana è questa, cioè, no, sai, i grandi geni sono tutti un po' così. Si sa che se la natura ti dà tanto da una parte, magari deve togliere da qualche altra per compensare. Va bene. E comunque poi sì, da metà degli anni 70 in poi la popolarità di Al Green è andata veramente al suo apice, anche se se è stato inversamente proporzionale alle recensioni della critica musicale, ovvero con il raggiungimento del successo sono iniziate anche poi le critiche da parte dei critici musicali, che non vedevano più un impegno, diciamo, lo vedevano un po' adagiato. E vabbè, ma doveva seguire il Signore, c'aveva da fare di messa, doveva stare dietro a troppe cose. E canta, e confessa. Esatto. C'erano un po' troppe cose da stare dietro, e allora ascoltiamoci questa Shalala di Al Green su Basement Records, Radio Wombat. Sentilo com'è. Oddio, ci stava scappando la fine. Cioè, ma perché era una musica proprio di sottofondo così piacevole. Perfetta, direi. Per fare due chiacchiere fuori onda. Si stava facendo i cazzi nostri. Non proprio i cazzi nostri, no, dai. No, stavamo... È vero, no, eravamo sempre sul pezzo, però effettivamente ci stavamo quasi non accorgendo che era finito. C'eravamo un attimo divagati. Sì, sì. Avreste potuto continuare a sentire... Che avrebbe potuto anche avere il suo perché. Ah, l'avremmo senz'altro passata per una scelta stilistica. Assolutamente. Salvati in corner. Un tocco di music concrete. Ora si parla invece di musica folk. Eh sì, di musica folk, perché il prossimo brano che lo stupefacente Ginox ci ha portato è un classicone della musica irlandese. Infatti si tratta di Danny Boy, che è proprio la ballata popolare classica del folklore irlandese, il cui testo è stato scritto nel 1910 da Frederick Weatherly. Spero di averlo letto, pronunciato bene. Ma tanto non lo sa nessuno, sì. Che era, tra l'altro, curiosità, stato scritto da appunto questo avvocato, Frederick Weatherly, che era un avvocato scozzese che però non era mai stato in Irlanda. Vabbè, ha visto la cartolina, ha detto che deve essere proprio un bel posto, ci faccio una canzone. E questa è assolutamente, poi è diventata un... Allora, però così è più bella, è più onirica e evocativa, no? Capito? Sì, perché l'ha composta senza averla mai vista e quindi era proprio una cosa dell'immaginario. Uno sforzo immaginativo, sì. E... Tra l'altro, le parole del brano tradizionale Danny Boy sono, sono musicate sulle note di un altro famosissimo motivo popolare irlandese, ovvero Londonderry Hair o Derry Hair, a seconda della dizione adottata da coloro che non riconoscono la legittimità del nome Londonderry. Giustamente. Bisogna vedere se sono lealisti o se sono orangisti. No. Era un po' incasinata, giustamente. Cioè, vabbè, se, noi, se erano filo-britannici oppure indipendentisti, diciamo. Vabbè, noi la diciamo come gli indipendentisti. Esattamente, assolutamente. E poi mi dicevi appunto questo, questo aneddoto che mi raccontavi delle... In realtà è tratto da un film, però... No, no, io l'ho capita, cioè l'ho capita così, potrei averla capita male, però sostanzialmente Danny Boy è, quando si pensa all'Irlanda, non è, anzi, non è l'inno dell'Irlanda del Nord, no, però di fatto, no, diciamo, è una canzone molto popolare che affonda appunto nelle radici anche del, della popolazione irlandese, e quindi un po' era un sintomo, era un anthem che univa, che tendeva anche nei dissidi pesanti che hanno lacerato l'Irlanda, rimaneva comunque una di quelle canzoni che erano riferibili genericamente a tutti gli irlandesi, più o meno sì, e a differenza invece di quello che caratterizzava molto bene gli indipendentisti, l'Irlanda del Nord, certo, eccetera. E quindi in questo film, che poi è un film abbastanza di quelli un po' di riflessione tardo postuma, non sai mai quanto revisionista o no sull'ira. È Loach? No, non è Loach. No, no, è una roba molto peggio. È un, mi sembra un film dove l'ha incentrato tutto su una palestra di box, che nasce nel, appunto nel, nel pieno del, dello scontro con l'ira. Sì. E quindi si vede un'ira molto, diciamo, molto, molto presente e influente, certo, all'interno della, della popolazione, e questa palestra che, pur stando all'interno del, diciamo, dei territori controllati dall'IRA, in realtà ha, diciamo, come obiettivo, e questo è un po' le, diciamo, secondo me il limite del film, ha un po' come l'obiettivo questa visione un po' sportiva alla De Coubertin, e quindi il film mette in risalto quegli aspetti che pure ci sono, negativi dell'IRA, cioè gli errori che hanno fatto, comunque l'autoritarismo molto pesante, cioè, che avevano per mantenere il controllo di quelle zone, però al posto di analizzarlo in questo modo, alla fine come esce dal film è sostanzialmente, almeno da come è apparso a me, è un generico, ah guarda quelli sono i violenti, capito, non è... un po' un film un po' qualunque, sì, sono un po' i violenti matti, capito, e che su una causa giusta hanno innestato una violenza senza senso, che poi analizzando la storia d'Irlanda non è esattamente così, Non è così, non si può semplificare in questa maniera, però era questa mi aveva colpito questa sì, visione. Mi aveva colpito però questa scena appunto dell'inno da cantare prima dell'incontro, che mentre quelli, mi sembra, dell'IRA volessero cantare qualcosa che era più legato all'indipendentismo irlandese, invece questi avevano proposto Danny Boy, come, diciamo, canzone che univa, tutti conoscevano, che univa tutti i territori, esatto, d'Irlanda. Sì, ed era forse l'unica scena, diciamo, corale interessante del film. Per il resto è un film abbastanza così secondo me, e non trascurabile, non ricordo, ma non lo so, forse era anche bella la regia, non mi ricordo quasi niente di quel film, il problema è questo, ci sarà un motivo, non mi ricordo neanche il titolo, però ecco, era per dare, diciamo, la dimensione del brano, che comunque caratterizza un po' il popolo irlandese, almeno nell'immaginario, anche fuori dall'Irlanda, cioè se alla fine l'ha scritto uno scozzese che non c'era mai stato, però capito, tutti quanti pensano Danny Boy è un classico, sì, sì, irlandese, vuol dire che a livello di immaginario comunque aveva colpito, no? Certo. Cioè, se non altro gli ha fatto una bella pubblicità. E in questo caso l'altra particolarità è che questa versione di Danny Boy è cantata appunto da Conway Twitty, che è il nome d'arte di Harold Lloyd Jenkins, che È un cantautore e chitarrista statunitense. Sì. E in più assolutamente una celebrità della musica country. Vabbè, però il country ha proprio un debito con la tradizione irlandese. Assolutamente, cioè, proprio sì. Enorme. Ecco. Assolutamente sì. E tra l'altro un'altra curiosità su Conway Twitty è che oltre a aver inciso appunto questa versione di Danny Boy nel 1959, altro suo grande successo, anzi altro suo successo grande no, però l'altro suo successo è un'altra cover, tra l'altro di una cover di Polanca, la famosa Diana di Polanca, pensa te, del 1900, coverizzata nel 1957. Vabbè, insomma, non una gran carriera. No, sentiamoci. Direi di no, ma sentiamoci Danny Boy nella versione country di Conway Twitty. Chissà che ne esce, io assolutamente non me lo ricordo. Sentiamocelo, secondo me è sicuramente qualcosa di interessante. Danny Boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you must go and I must die. Tanto country questa, no, rock and rolleggiante, ma mentre partiva me lo ricordavo che poi aveva lo stacco rock and roll. Bello, bellino. Rock and roll, ci siamo tanto dati bellino, una molto bellino, ci ha dati la sveglia. Sì, bello, ci stava proprio bene questa, ma Danny Boy. Il prossimo pezzo è qui, mi ha stupito perché quando ho visto questo nome sulla tracklist ho detto no, capro, proprio come se l'ave quasi come se l'avessi scelto io questi dischi, perché il prossimo disco che ci andiamo a sentire è dei First Choice, e in questo caso è Smarty Pants, un loro... In realtà delle First Choice, perché è un trio femminile di Filadelfia. Bomba. Assolutamente, delle regine in ambito disco soul, le First Choice. Infatti, se vi ricordate, l'ho pure messa nella puntata di Tonight Alive, quando è stato fatto Marshall Jefferson nella versione. Il brano era Let No Man Put Us Under del 1977, nell'epocale remix di Frankie Knuckles. E le conoscevo per quello, fondamentalmente, perché hanno dato un sacco di perle al disco soul, le First Choice, questa Smart Defense, ma anche Armed and Extremely Dangerous, Love Thang, Let No Man Put Us Under, Doctor Love, sono state veramente delle grandissime in questa piccola nicchia che era la disco soul. Infatti hanno inciso per delle notevoli etichette di genere come la Philly Groove Records, come la Soul Soul Records, la Gold Mine, magari non vi diranno niente, però insomma nell'ambito sono etichette che hanno un notevole peso specifico, ecco. E a questo punto, visto che dalla regia ci fanno il famoso gesto con la mano. Siamo chiacchieroni, sì. Stiamo andando lunghissimi. E sentiamoci questo pezzo del 1973, Smarty Pants delle First Choice. Eccoci qua dopo Smarty Pants delle First Choice. Bello, un bel pezzo. Il testo è, da quello che ricordo e da quello che capisco poco in realtà, penso che il senso sia sostanzialmente un consiglio da donne ad altre donne. perché parla di questa Smarty Pants, no? Che diciamo, gli piaceva un uomo, capito? Si mette questi Smarty Pants, ottiene effettivamente che l'uomo si interessi a lei, però 9 mesi dopo rimane incinta. Incinta, e probabilmente questi fans non erano molto smarti, ma sicuramente saranno stati short. E quindi io, boh, l'ho interpretato un po' come un consiglio, Sì? appunto, cioè nel senso, punta chi vuoi, fai quello che vuoi, ma stai poi all'occhio che Perché i in maschi cima è comunque bucato. sono stronzi, tendenzialmente sì, cioè Esatto. un consiglio giusto e saggio. Vedi, facevano anche della didattica le first choice, non erano solo delle divette disco soul. Porca No, era un secondo me facevano dei pezzi ganzi, miseria, cioè assolutamente. se trovo un altro 45 giri la prossima volta lo porto. Sicuramente portalo. Comunque anche quelli che facciamo ascoltare ora, questi sono altri super Altri super giganti. Cioè super super un gruppo praticamente giganti. misconosciuto, ma sicuramente sapete cose che hanno fatto ma che loro non hanno reso famose. Esatto, E comunque comunque sono un gruppo bomba. sono un gruppo super bomba e io li conoscevo per un'altra canzone e tra l'altro sono stati uno dei primi gruppi multirazziali rock di metà degli anni 60. Infatti Penso che si erano bianchi e sono neri. esatto. Loro erano di nord di Londra, mi sembra. Sono, sì, nel nord, si sono formati nel nord di Londra nel 1965 e il loro primo grande successo, appunto, è quello che vi faremo sentire, Baby Come Back, È che è una super hit, è una una super super hit. hit, è un singolo uscito nel 1966 che inizialmente appena uscito non era andato per niente bene in Inghilterra, ma era Ignorantoni. stato passato abbastanza inosservato, ma incredibilmente questo Baby Come Back era andato numero uno sia in Germania che in Olanda, e Pensate, infatti la poi vedevano lunga sti era olandesi e stato sti turchi. ristampato in Inghilterra e una volta ripubblicato nuovamente in Inghilterra è diventato numero uno successivamente anche in Inghilterra, ma nella sua prima pubblicazione in Inghilterra non era, credo che non fosse neanche entrato nelle prime 100 della classifica. E infatti poi se ne sono accorti prima i tedeschi e gli olandesi, magari poi gli inglesi ci hanno ripensato e l'hanno fatta ridiventare prima. Comunque hanno avuto diversi successi da classifica agli Equals. Sì, io ho anche un altro 45 giri, che magari porto sempre la prossima Portalo volta. perché loro sono veramente tanta roba. Io li conoscevo per questa canzone particolarmente famosa direi nell'ambito skin. Che Hai detto prima. l'ho detto prima, lo volevo Ora dire non tra te lo dici più. no, te lo ridico subito. È Black Skin Blue Eyed Boy, che è Bravissimo. del 1970, e infatti è stato uno dei primissimi gruppi multirazziali a avere successo in ambito rock. Infatti i suoi componenti due erano proprio londinesi, due bianchi, John Hall e Patrick Pat Lloyd, ma gli altri erano altri due giamaicani, i fratelli Gordon e Eddie Grant, che invece era nato in Guyana. Sì, dove poi torna a un certo punto. E poi dopo Ah, lui torna ha in avuto delle Guyana. vicende, sì, è stato male, c'ha avuto un attacco, un collasso, Sì, insomma, ha così. avuto dei problemi di salute Ha ed è lasciato il gruppo e tornato poi ha continuato con una carriera solista. solista. E tra l'altro, questa cosa diciamola, che nessuno la sa, quella Ah, quella del. lì che nessuno sa, però. Ovviamente, allora, sicuramente conoscerete Police on My Back. Dei Clash del 1980, ecco, sappiate che che Police on My Back era il lato B di, appunto, Baby Come Back. Tiè. Bam. E quindi Police on My Back era degli Equals. E i Clash l'hanno coverizzata nel 1980. Era il lato B, però, di un disco che è uscito da... No, cioè, perché io c'ho il disco qua, ma il lato B non era bello. Quindi ci avrò un'altra stampa, chissà in quale stampa. Comunque è un pezzo loro. L'originale, appunto, è degli Equals. E vai, adesso andiamoci a sentire il successone Baby Come Back. Era e dopo Baby i problemi tecnici back. Ce l'abbiamo fatta. È così. Capita, è il bello, il bello della diretta, dai. Sì, sì. Infatti non mi deprimo. Andava benissimo, era ancora più realistico, direi. Sì, li dovevo salvare in corner screcciando, ma non ce l'ho fatta, sì. Invece no, sono rimasto lì basito a dire "Ma non succede niente". Oh no. Oh, i prossimi, altro gruppazzo che sono gli Who's Corporation. Anche qui andiamo sulla funky disco. Esatto, qua. Con Go to the Poets. E gli Who's Corporation sono un gruppo che si era formato in California nel 1969. E il loro più grande successo, Rock the Boat, del 1974, è stato veramente un successo milionario e ha venduto oltre 2 milioni. Ce l'ho, c'ho anche 2 milioni di copie. C'ho anche quello, ma non ho portato quello. E tra l'altro sono stati anche invitati come diciamo comparse barra coprotagonisti grazie a questo Rock the Boat in un film del genere Blaxploitation, ovvero in uno dei filmoni del genere Blaxploitation, ovvero in Blacula con Perché William io credo Marshall. che anche il nome abbia un significato di orgoglio nero. Cioè, mi sembra che Può essere. us, a us, Pues. mi sa che us, cioè solo us, era un modo per dire colore. Ah, sì, è vero, è Era vero, è un. vero, è Non vero, mi ricordo è vero. Te l'ho bene risa. la. Non lo riesco ancora a Sì, ricostruire, però è una roba del genere. è vero, è vero, è vero. L'avevo letto, me l'ero dimenticato, sì, tipo colore, Sì, tonalità, esatto. una cosa del genere. E anche loro hanno avuto diversi successi entrati in classifica. What the World Knows, I'm Gonna Catch You, Freedom for the Stallion. Hanno avuto veramente tantissimo successo. E molti dicono anche che sono stati i primi a pubblicare un disco che poi a pubblicare il primo disco, il primo, aspetta che mi sto Vai, vai, vai. incartando, il Allora. primo vinile, la prima canzone a essere definita disco. Addirittura. E Sì. qual era sta canzone? Sentiamo un po'. Anche se poi in più Dai, non è vero. Sono quelle cose che tutti rivendicano la paternità, no? appunto È come chi ha iniziato l'hip hop. Sono stato io, sono stato esatto, io, sono stato io. per A seconda di con chi parli. convenzione viene considerato il love theme della Love Unlimited Orchestra, che è del 1974. Vabbè, ma non sono cose Sì, vere. insomma, Sono è fenomeni che nascono. la famosa Che. storia, no? L'ho fatto prima io, mezz'ora Esatto. prima, no? Ma è E i mio. geist dell'epoca che Esatto, dà no? Ma vita io al fenomeno. l'avevo registrato prima, ma me l'hanno pubblicato dopo. Sì, Insomma, vabbè. sempre quelle storie lì. Comunque era un gruppo che aveva avuto anche un discreto successo commerciale di classifica, non era solamente In realtà il per. pezzo Go to the Poet è un pezzo strappalacrime languido. Sì, infatti Non è la loro produzione non era uno più di questi. ballereccia, cioè è comunque allegrotto, cioè nel senso che per essere non è proprio capito, Non è non proprio Rock the Boat. è Rock the Boat, non è Rock the Boat, non è neanche una roba super melensa, però è comunque una roba romantica, romantica come siamo noi d'altra parte. Assolutamente. Allora sentiamoci questa Go to the Poet di Who's Corporation. Radio Wombat. E fine anche di questo romanticissimo pezzo. Mamma creato mia, qua come siamo carini e coccolosi. Un'atmosfera proprio, veramente da ballo lento e limono. Eh sì, da ballo del mattone proprio. Sì, mi sono stati mezz'ora prima a dire disco, disco, disco. Invece non era. Ti abbiamo rifilato. L'abbiamo fregato malamente. Il peggio sol, lentazzo. Quello proprio da film anni 80 di seconda categoria. Ah, oh, sì. Però eseguito da delle voci, capito, dei musicisti, non da poco, ecco. Ora invece si torna a un altro personaggio parecchio conosciuto. Ciuto. Almeno negli anni 60. Almeno negli anni era 60. Uno di quelli che ogni pochino era sempre qua in Italia. Era sempre qua, infatti ha partecipato a Sanremo per 4 anni consecutivi e stiamo parlando di Jim Pitney, ovvero di Jim Francis Alan Pitney, che era appunto questo cantante statunitense che ha anche composto diverse colonne sonore e poi debutterà come cantante nel 1960 e questa che vi faremo sentire è appunto sicuramente la presa da una colonna sonora. Questo era il tema principale della colonna sonora del film La città spietata. La città spietata, ovvero Town Without Pity, appunto. Lo conosce, perché noi non sappiamo cosa sia, ma neanche lo sforzo di cercarlo su Wikipedia abbiamo dovrebbe fatto. Fare un fischio a Coming Song. Ormai non c'è più. E comunque questa Town Without Pity era stata scritta da Dimitri Tiomkin e appunto inserita nella colonna sonora dell'omonimo film. Però io andrei un attimo a riguardare, prima di fare partire questo grande pezzo, ricorderei le canzoni che ha cantato a Sanremo Jim Pitney. Così magari capite chi era. E almeno capite vai, chi vai, era. Vai, citiamo di quelle famose. Un soldino, amici miei, i tuoi anni più belli, che cantò in coppia insieme a Iva Zanicchi. Che bomba. E la sua più famosa probabilmente è Nessuno mi può giudicare, cantata, la sua più famosa nel senso non era sua, ma cantata appunto in coppia con Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. E ma tutti se lo ricordano per Caterina Caselli, cioè Jane Pitney, chi cazzo se lo ricorda, giustamente. E poi ha cantato anche La rivoluzione, che curiosità cantò in coppia con Gianni Pettenati e che Luigi Tenco citò nel suo biglietto d'addio prima di suicidarsi. Pensa che salto mortale, ci possiamo ricollegare alla puntata di parecchi tempo fa dell'anno scorso in cui mettemmo Tenco. Esatto. Sì. No, non no. Mettemmo Tenco, mettemmo Dalida. Dalida e parlammo di Tenco, che era la fidanzata di Tenco, pare, ma non si sa perché comunque c'era un mistero. Ma non era ufficiale. Sì, ma poi forse rosa, non era vero, c'era non tutto era rosa, un po' ma comunque era vero, alla fine siamo tornati a parlare sempre delle stesse cose. Hai visto, madonna. È l'età. Ma già tanto che ce ne ricordiamo di averne già parlato. Già qualcosa. E questa appunto è Town Without a Pity di Jim Pitney. When you're young and so in love as we, and bewildered by the world we see, why do people that are so, only those in love would know what a town without pity can do. If we stop to gaze upon a star, people talk about how bad we are. Ours is not an easy age, we're like tigers in a cage. What a town without pity. Help us before this plain granite many things survive when these little minds tear you in two. What a town without pity can do. Survive when these little minds tear you in two. What a town without pity can do. No, it isn't very pretty. What a town without pity can do. Wow, era famosissimo. Era. Sì. Cioè, appena è cominciato, è famosissimo. Guarda qual era. Che ignoranza. Cosa sarà un noir? Jim della Pitney. Città spietata. Credo di sì. Questa è un'atmosfera film, da noir, sì. Proprio. La canzone, sì, il film non te lo so dire. Boh. Non ci sputtaniamo così, immaginando. No. Comunque abbiamo creato, capito, praticamente l'introduzione ideale per la nostra sigla a questo punto conclusiva, sì, l'ultimo pezzo che abbiamo lasciato Aretha come ultima, perché abbiamo questo pezzo di Aretha Franklin che è Gentle of My Mind, che in realtà Aretha Franklin ha coverizzato, perché l'originale era stato scritto da John Hertford e pubblicato nel 1967 dal cantante statunitense Glen Campbell come unico singolo dell'album omonimo, e è sicuramente nell'ambito è un pezzo molto bello, nell'ambito della discografia clamorosa di Aretha Franklin lo possiamo sicuramente considerare un minore. Prossima volta porto Rocksteady. Ci sto. Una botta di vita. Assolutamente sì. E questo però è la cover, appunto, l'originale era stato pubblicato nel 1967. La cover di Aretha Franklin è del 2 anni dopo, del 1969, e nella sua versione originale, del vinile originale, era stata pubblicata come lato B del singolo I Can See Myself Leaving You, appunto, su Atlantic del 1969. Wow. Ma questo non è il nostro caso, visto che abbiamo una versione da jukebox. Jukebox italiana, sì, dall'altra parte c'è Otis Redding. Pompissima, tra l'altro, sì. Si potrebbe far sentire anche lui la prossima volta. Non questa, perché siamo in ritardo. Abbiamo fatto tipo 18 ore di puntata. Ritardo netto. Vai, allora chiudiamola. Chiudiamo, facciamo i saluti. Ciao a tutti. Basement Records ritornerà. Quando ritornerà, lo sapete, noi non diamo mai delle date. Siamo la trasmissione fantasma e ci piace così. E quindi alla prossima qui sulle frequenze di Radio Wombat con Basement Records. Ciao. Ciao ciao. Right there. It's knowing I'm not shackled by forgotten words. Wombat.